Vasquez, buonasera, come va? Tutto bene. No, non si è sentito, riprova. Tutto bene. Adesso si è sentito, uguale, parla più forte. Buonasera a Ambrogio. Aspetta, com'era? Aloisio. ogni puntata uno nuovo. No, Aloisio. Comunque la mia vita sessuale lo stavo raccontando oggi a Gabriele. Me lo raccontava al lavoro. Da quando sono diventato Ambrogio è nettamente migliorata. Mi ha ricordato Michele Placido che confessò in conferenza stampa a Roma: da quando Tornatore mi ha fatto pelato per la sconosciuta, la mia compagna è impazzita. E ci fu il gelo in conferenza stampa, invece mi sta sparata alla fine. Capito, ci sono perché questi momenti. Perché la mozione di sfiducia del PD ha avuto più senso, appena Bossi ha chiesto scusa l'hanno ritirata. Ci sono dei momenti camera qui, caffè in cui lui arriva qui e mi dice: sai, la mia vita sessuale, vediamo se è così che comincia. Parliamo di cinema e non tergiversate. Pronti? Non anche tergiversate. Perché abbiamo un grande ospite con noi in collegamento stasera. Chi abbiamo? Robert De Niro? Luca Miniero. No, quello magari next week. Magari. Tutta la settimana a casa mia ha fatto un macello. A saperlo, vedi? Ha suonato con le tastiere, con le cose. Metti sto disco, metti questo. Are you talking to me? No, parlava romano. Ah, imparato. Perché deve fare il film in Italia e quindi viene qua e fa immersione nella cultura. Ma quando debbono recitare, come fanno? Visto che recita. No, lui parla in inglese. Anni tempi? Sì. Cioè, sa che quando è finita quella battuta, Verdone, che c'ha la scena insieme, sa che De Niro dice: ogna, ogna, ogna. A parte che Verdone qualcosa capisce sicuramente. D'inglese, sa che finisce, sa benissimo qual è il corrispettivo in italiano. Ah, ecco. E poi parte lui. È bello. Noi non lo vedremo. Sarebbe bello sentire poi in un extra del DVD, sarebbe bello che mettessero in futuro nell'extra del DVD la parte originale con i due che parlano in lingua. Molto carino sarebbe. Ad ogni modo, io so che lui fa. Lui Robert De Niro. Ah, Robert. Fa un italo-americano. Robertino. Sì, fa un italo-americano, il che vuol dire che può essere che parli lui italiano. Quindi che per è previsto dal copione. Che lui non ha una parte così grossa. A parte che è un film episodio, lui ha solo un episodio. E insomma, potrebbe anche essere che parli lui un italiano. Anche perché insomma, in italiano c'è stato, potrebbe anche sapere già qualcosa, non potrebbe non essere totalmente digiuno. Secondo me parlerà forse allora in italiano, ma non in presa diretta. Si doppierà. Ah, forse. Però può essere, sì. No, continuate, io sto rispondendo a innumerevoli messaggi su Skype. Noi siamo pronti. Siamo allora, pronti a film di questa settimana, vai. Allora, questa settimana cominciamo con un film che in realtà è molto vecchio, esce solamente ora, ma noi l'avevamo, sia io che Francesco, avevamo avuto modo di vederlo 2 anni fa a Venezia, quindi non questo settembre, ma settembre scorso. È molto bello, si chiama The Horde, in realtà poi dirà meglio Francesco, in realtà questo non è proprio il vero titolo, c'è cioè una piccola truffa, secondo me alla fine a fin di bene, giusto per incassare un pochino di più, però è un bel film di zombie, francese, che racconta la storia di un gruppo di poliziotti che decidono di andare a fare un raid in un grande palazzo delle banlieue perché sanno che là dentro c'è chi ha ucciso uno di loro. E come sapete, quando ai poliziotti uccidi uno di loro succede un dramma, devono andare subito a fare giustizia. Insomma, vanno lì in questo in grande palazzo. In generale? Sì, sì, tutti lo sanno. Un po' fascisti. in generale. Vanno in questo palazzo, lo prendono d'assedio e quando sono là che si sparano con i criminali, arrivano gli zombie e quindi le due parti si trovano a doversi alleare. È un film, come diciamo, molto bello, un bel zombie movie che sembra americano ma è francese e sembra talmente americano che l'hanno intitolato, che gli italiani l'hanno intitolato come americano, cioè invece di distribuirlo in Italia come La Horde o l'orda assassina, l'orda di sangue potevano mettere, invece l'hanno intitolato The Horde. Fandango peraltro, quindi una casa di distribuzione d'autore, ha fatto una scelta molto cinica, molto anni 60 per un pugno di dollari, americanizziamo ogni cosa perché famo i sordi così. Sì, perché uno zombie movie si pensa che il pubblico è più incline ad andarlo a vedere se ha un titolo americano o se sembra americano. Comunque, gran belle facce, gran bel palazzo, 13 piani come distretto 13 di Carpenter, avversari sociali che si alleano per contrastare gli avversari sovrannaturali, caro Prince, bello, violentissimo, lo zombie veloce. C'è chi è contro lo zombie veloce, io lo detesto. Tu sei contro, vero? Sì, invece a me io pure sono per lo zombie lento. A me non dispiace. Lento ma inesorabile. Più lento è, più c'è pathos e più il mostro acquista gravità. Non è detto a tutti. Quelli veloci sono. Cioè, non hanno senso. Secondo me non è zombie movie, è un film con. Lo splatterone. Uno che c'ha la rabbia. Non mi viene quasi da dire zombie movie. Poi dobbiamo dirlo perché è un'evoluzione, c'è il contrario. Appunto, è un'evoluzione. È un'involuzione, secondo alcuni. Cioè, io sono più contrario a rimanere sempre uguale, a rimanere sempre nella stessa, confinati. Io amo molto il mostro. E secondo me il mostro gli cambi completamente identità se tu lo fai andare veloce. Lo zombie lo devi sottovalutare. Se tu lo sottovaluti, ti fa ridere. Ti metti a ridere. Io e te potremmo uccidere uno zombie insieme, no? Se arriva anche io da solo, che poi è quello bellissimo dei film di Romero. La gente impazzisce proprio perché è un mostro facile da uccidere, ma è inesorabile. Allora tu lo sottovaluti e lui ti fotte per questo. Ti frega. Tu lo fai diventare veloce, diventa meno da sottovalutare. Sì, ma una figura poi si svilisce nel corso degli anni, necessita di una certa evoluzione, per cui io ci sto. È un'involuzione, secondo me. È bellissimo lo zombie mostro, non cambiamolo. Ci facciamo le pugnette, eh? Vabbè, ragazzi, comunque. Il film è fantastico, Prince. Va da vedere? Assolutamente, sì, da vedere, sì, è bellissimo. C'è Ken Loach più Danny Boyle, più che forse George Romero, quindi Danny Boyle, il mostro veloce, lo zombie veloce. E c'è la Grandi Facce, bellissimi poliziotti, giacche di pelle, sì, ma... cattivissimi poliziotti. Lì devono essere cattivi, perché poi di fatto inizio donna cattiva, molto bello, quindi non c'è nemmeno questo cinema lezioso che tratta la donna, no, donna cattiva, bastarda, molto tarantiniano forse da questo punto di vista, quindi molto poco politicamente corretto e molto poco retorico. bello, poi arrivano gli zombie e questi si devono unire, ci sono delle invenzioni stupende, è cattivissimo e violentissimo. È accaduta una cosa divertente a Venezia 2 anni fa, questi due ragazzi francesi, diciamo il nome, Yannick Dahan e Benjamin Rocher, i registi bravi, erano a Venezia tutti emozionati perché c'era George Romero, il loro grande maestro, con un zombie movie in concorso, mentre loro erano in una sezione molto bella che è le giornate degli autori. Quindi loro erano emozionati, vanno a vedere Romero fa schifo 2 anni fa in concorso. Sono stati visti questi due ragazzini francesi. Qual era il film di Romero? Era Survival of the Dead, che è uno l'ultimo capitolo, quarto, quinto? È il quinto capitolo, quinto. È il quinto capitolo è il sesto capitolo, pardon. Sicuro? Sì. Ci fermiamo per qualche istante, fermi tutti. Allora, abbiamo al telefono Luca Miniero. Luca, ci sei? Ciao, sì, ci sono. Eccolo qua. Allora, sì, benissimo. Allora Luca, grazie di essere qui a Radio Rock a Celluloide e Celluloide, ospite illustrissimo Luca, regista di Benvenuti al Sud, che a me è piaciuto molto, ma ne parlerò dopo con Gabriele. E Luca, allora, benvenuto tra noi. Sarà un'intervista serratissima perché tu sei molto impegnato e stai andando a presentare il tuo film. Subito, prima domanda a bruciapelo, qual è stata la cosa più difficile da regista che hai trovato nel tradurre il film dalla Francia all'Italia? Qual è stato l'ostacolo più duro che come regista hai dovuto superare? Guarda, non ho un ottimo audio. Mi chiedo l'ostacolo più duro che ho dovuto superare. Come esatto. Sì, per tradurre il film dalla commedia francese alla commedia italiana. Ah, certo. Certo, l'ostacolo più duro prima di tutto è quello di cercare di dare un'anima al film, cioè la personalità, nonostante la struttura possa ricordare essere molto simile a quella francese, in realtà il film racconta la nostra realtà, siccome la nostra realtà nord-sud è estrema, non volevo scadere appunto in un contrasto violento, ma riuscire a dare un messaggio, far riflettere, ma soprattutto facendo ridere. Come mai il tuo film, Luca, ci sembra un film molto sulla paura, sul superamento della paura, sei d'accordo? Sì, certo, la paura è un po' un tema, paura per scendere giù al sud del film, però viene superato soprattutto il pregiudizio attraverso la conoscenza. Senti, invece ti volevo fare una domanda io, ciao. Il film francese poi. Com'è il film francese? Sono Gabriele Niola, ciao. Ho una curiosità, vedendo il film si ha molto l'impressione che le parti comiche più forti, quelle più divertenti di Bisio e di Siani, siano scritte da Bisio e da Siani, cioè sembrano proprio le loro tipiche battute, è così? Mi sento male, se siano state scritte da Bisio e Siani. Bisio e Siani si sono un po' scritti i ruoli? Certamente abbiamo pensato a loro quando è stata scritta la sceneggiatura con Massimo Caudioso e chiaramente abbiamo cercato di dargli molto più sul loro personaggio. Ma le battute chi le ha scritte? Come? Le battute chi le scriveva? Le loro? No, le battute sono assolutamente da copione, poi c'è stato lo spazio all'improvvisazione, ma assolutamente è stata una lunga preparazione con gli attori prima di entrare in sala. Quanto ti manca? Quanto ti manca Genovese, Luca? Tu hai cominciato con Genovese, avete fatto delle cose insieme molto belle, adesso è come un po' le rock band che si sciolgono qui a Radio Rock, è bello parlare di questo. Quanto ti manca Genovese? Ma Paolo sicuramente è un amico. Dal punto di vista professionale devo dire che i nostri loro erano molto separati mentre giravamo, e dunque credo che insomma abbiamo scambi continui anche se non giriamo più insieme, e poi in pubblicità continuiamo a farlo. Senti, un'altra cosa che mi ha fatto molto strano è che sia stato scelto proprio tu per fare Benvenuti al Sud, che avevi già fatto Incantesimo Napoletano, un film che per certi versi è quasi il contrario, che comunque affronta lo stesso tema. Forse lei non è un caso, nel senso che Napoletano già aveva le tematiche, no, di giù al nord. Per me è stato pure fare un po' un remake di Incantesimo Napoletano. Mi sento malissimo. Però al contrario, lì era la dinamica opposta. Ribaltato, diciamo, un incantesimo ribaltato, Luca. Come, scusami? Un incantesimo ribaltato completamente il contrario di Incantesimo Napoletano. Lì c'era la bambina che parlava milanese all'improvviso in una famiglia napoletana, e qua è esattamente il contrario. Però lo strano di questi film però è che tendono sempre ad annullare gli stereotipi negativi verso il meridione, però poi confermano quelli verso il nord. Cioè, in Incantesimo Napoletano non viene assolto il nord come nel Benvenuti al Sud viene assolto il sud. No, teoricamente nei confronti meridionali qui non c'è polemica, qui c'è proprio una conciliazione tra nord e sud e un ridere sui pregiudizi tra il nord e il sud. Ragazzi, io sto entrando in sala per i saluti. L'ultima cosa, Luca, al volo, hai dovuto un po' frenare Bisio, l'abbiamo visto che parla meno velocemente in questo film, hai fatto un po' un lavoro in questo senso? Sì, rispetto a Claudio io trovo che lui è una, penso sempre male, ma è un attore straordinario, però quando trova la misura insieme anche a Siani possa essere una coppia comica esilarante, soprattutto laddove non sono guidati con una compericcia. Il mio tentativo era quello di non farli andare mai oltre. Un abbraccio a Luca Miniero, buona presentazione del film, Luca, e in bocca al lupo per gli incassi. Ciao, grazie. Ciao, bacio. Ciao, grazie. Qui in diretta, allora parliamo di film, vai, com'è questo film? Beh, allora, vai, comincia tu perché abbiamo pareri, sì, un po' diversi. Allora, io, vabbè, insomma, mi sembra anche una bella storia quella di Miniero, viene dalla pubblicità, lavora con Genovese, con Paolo Genovese, fanno questo film buffissimo che è Incantesimo Napoletano, che piace molto, anni fa, girato con due lire, divertente, molto a... Devo dire, a me già non piacque Incantesimo Napoletano per nulla. Ma... molto a inquadrature statiche, accadeva tutto con un montaggio interno. A me piaceva molto il giro del ragù e la bambina che parlava in milanese a Napoli. Detto ciò, questo è andato avanti, sono andati avanti, si sono anche separati, fanno un cinema molto garbato. Allora, Benvenuti al Sud è ovviamente remake italiano di Giù al Nord, il grandissimo incasso, il più grande incasso della storia del cinema francese. L'ho trovato un film molto gentile, molto garbato, pieno di cuore, e mi ci sono adagiato. È stato un film che mi ha accompagnato per un'ora e 40 in modo molto molto piacevole. Ma invece a te non è piaciuto? No, non è piaciuto un po' troppo, è un film piacevole, però mi ha un po' deluso perché l'adattamento è fatto, insomma, un po' all'acqua di rose, nel senso che tutte le cose migliori del film mi sembra vengano veramente da Bisio e Siani, ma da loro due, dagli attori, da quello che sanno portare. Il resto tira avanti la baracca, non è niente di che. E poi, come avevo cominciato ad accennare al regista, sono un po' stufo del fatto che assolviamo sempre il sud e mai il nord, automaticamente mettendolo in una posizione di svantaggio, come se avesse bisogno del pietismo. È come lo stesso concetto della festa della donna, il fatto che ci sia bisogno di una festa della donna automaticamente la svantaggia. Ma io non sono affatto d'accordo, non penso che sia un film che ha un atteggiamento paternalista nei confronti dei meridionali che li deve o che deve comunque dire. Guarda, faccio una cosa, lo vado a vedere e poi vi racconto. Sì, secondo me ti piacerà. E c'è un Bisio molto slow. Parla, guarda, raramente l'ho visto così piano, così lento nel porgere le battute. Meglio. Ma regge il confronto col il film francese? Secondo me no. È meno esplosivo. Il film francese era più esplosivo. È bello. Ma come può? Ma è anche molto difficile, Sandro, quando porti una cosa lontana da quel posto lì. Però l'idea era buona. L'idea sì, è molto buona. Sembra italiana l'idea. Ti posso dire un'altra cosa? Sì. Io l'avrei fatto in Sicilia. Forse sì, e forse più estremo ancora poteva essere. Anzi, per una cosa che deve andare di moda in Puglia. Ma sì, però comunque va anche molto di moda, no? Visti i tempi che corrono. Quindi sono convinto che è un film. A me piace molto questo tipo di cinema industriale. È un film che arriva in un momento in cui ci sono personaggi ignobili da te citati precedentemente che dicono porci ai romani, che mettono tutti i simboli della Padania su una scuola dello Stato italiano. Allora, in questo momento è divertente che arrivi qualcuno che proprio getta l'acqua sul fuoco, perché il film è molto gentile. Allora mi piace questo cinema che è gentile, cioè. E comunque c'è una comparsata dell'attore francese, dell'attore dell'originale francese, un piccolo ruolo a un certo punto che è carino. C'è Giacomo Rizzo, c'è Paone di Bulldozer, l'abbiamo citato la settimana scorsa, c'è Giacomo Rizzo dell'Amico di Famiglia di Sorrentino e Danny Boom fa la scena con Giacomo Rizzo ed è molto carina, arriva lui, non si capisce niente, arriva il protagonista del film francese, non si capisce niente, ma si capisce con uno di quelli, con uno dei napoletani che Bisio non comprende e questa è molto carina quell'idea. Un weekend da bamboccioni, prego. Vai. Allora, questo, ecco, io proprio no. Questo film proprio no, mentre invece Francesco mi sembra di capire che già gli era piaciuto. È anzitutto il nuovo film di Adam Sandler. In realtà poi nel film non c'è solo Adam Sandler, ma tutta una serie anche di altri comici americani che venivano dal Saturday Night Live. E racconta la storia di un gruppo di amici che erano amici quando erano adolescenti, poi si sono persi e poi si riuniscono perché muore il loro coach della squadra di pallacanestro. Nel riunirsi, chiaramente, passeranno un weekend insieme con le rispettive famiglie, tutti in un cottage nei boschi americani, e ritroveranno se stessi, insomma, un po' le solite cose. Non è divertente, perché a me non mi ha fatto ridere, ed è proprio emblema di quell'idea molto sandleriana, il ritorno ai veri valori, era tutto meglio prima, le cose autentiche, veramente veramente americane, come appunto il campeggio, il baseball, la pallacanestro, tutti quel tipo di valori molto East Coast, che secondo me è svilente celebrare in questa maniera. Sì, vabbè, allora a me piace poi una parola grossa, sono meno arrabbiato di Gabriele nei confronti di questo film, sarà che sono proprio vecchio, sono più indulgente, comunque è un altro film che mi fa simpatia, anche perché ho amato molto il fatto che ci siano quattro ex amiconi che si conoscono da 20 anni che fanno il ruolo di quattro ex amiconi che non si vedono da 30 anni. Quindi sono quattro comici, il rapporto tra personaggi e attori è molto simile, quattro comici cresciuti al Saturday, conosciutisi al Saturday all'inizio degli anni 90, Sandler, Chris Rock, David Spade e Rob Schneider, che io adoro, e quindi tu questa cosa la percepisci, cioè questi proprio sono 20 anni che si conoscono, fanno il film insieme, ha ragione Gabriele, scritto male, c'è poca attenzione, oggi Gabriele mi diceva una cosa molto intelligente. Ma va? Gabriele... È terribile che non mi ricordo, cos'era? Questo non mi stupisce, ecco, più lo conosco, più scopro che non... È svagato, non è, ma è l'amore. È quello. Comunque, mi ha detto, col suo solito fare perentorio, certo. Mamma mia, non ho mai visto Chris Rock così spento. Allora, Chris Rock è l'afroamericano del film. Chris Rock è uno dei tanti a cui Daniele Luttazzi ha copiato delle battute negli ultimi anni. È un attore... meglio come stand-up comedian che come attore cinematografico. Comunque, chiudo parentesi, è l'afroamericano. Ah, ma è un copione Luttazzi, allora, non è vero? Sì, è miseria. E comunque è vero che è un po' spento. Tu lo vedi sto Chris Rock che sta lì, è un po' spento. Ha ragione Gabriele. Sì, detto sì, ciò, sì. C'è una gag che fa morire dalle risate. Un po' di benzina. C'è uno di loro, uno di questi amiconi, che c'ha. Sei questa proprio veramente. C'è sta uno di questi amiconi che ha un bambino che succhia la tetta della madre a 4 anni di età. Continua a succhiare. Questo è molto divertente, perché c'è il padre che dice a 48 mesi. 48 mesi. E dico, aspetta, ma sono 4 anni. E senti questo bambino, mamma, pum, va lì. E questo è molto grossolano, ma divertente. Sapete nulla di Innocenti Bugie e Cameron Diaz, Tom Cruise? Sì, sì, io l'ho visto. Abbiamo visto, l'abbiamo visto. Allora, a grande... spara tutto? Allora, lui lo boccia, io lo promuovo. Lo perché... spara qualcosa. Tanto per cambiare. A grande sorpresa, sembra un po' una cretinata americana, dove appunto sparano di qua, sparano di là, nessuno si fa mai nulla. È così. Però ha tutto un sottotesto molto interessante. Cioè, è il primo film che io vedo di questa categoria, cioè di spara tutto, esplode tutto americano, veramente femminista. Dove per femminista non intendo che la donna fa il ruolo dell'uomo, ma la donna fa la donna. Quindi nel caso specifico poi Cameron Diaz non è un agente segreto, Tom Cruise sì, quindi è per forza in condizioni di debolezza. Però prende le redini del racconto e tutto il racconto è visto attraverso gli occhi di lei. Cioè lui è un po' un cretino, è un po' quell'uomo... È un po' un nano soprattutto. No, è un po' l'uomo macio visto dalla donna smaliziata, sì, che non gli fa impressione l'uomo macio. È un nano. E insomma, è molto, molto carino. E lei prende... prende molto le redini della storia, però con un fare femminile, non con un fare che imita gli uomini. Allora, due coppie che abbiamo già visto questa settimana. Mo ti faccio la parte aneddotica. Ecco. Due coppie che abbiamo già visto. Cameron Diaz e Tom Cruise facevano l'amore proprio alla grande, con grande energia, in Vanilla Sky. Poi lei si arrabbiava con lui e cercava di ammazzarlo uscendo di strada con la macchina. Angela Finocchiaro e Claudio Bisio erano già marito e moglie, ma erano ex marito ed ex moglie. In amore, protagonisti di Benvenuti al Sud, erano in amore bugie e calcetto. Quindi due coppie che tornano questa settimana, ma caro pensa, Sandro. Caro Sandro, ma solo e due, tu vai a trovare queste cose. E due titoli italiani strani. Abbiamo detto The Horde, Domenico Procacci, perché americanizzi questo bellissimo film francese? Vuoi fare i soldi? Vuoi fare i soldi? Lui risponde sì. Sì, però allora la Fandango è un po' più becera di quello che pensavamo. Ma non è becera, è un po' più intelligente. Diciamolo. E seconda cosa, perché un weekend da bambuccioni, Sandro? Espressione coniata da certo. Pado a Schioppa. Che cavolo c'entra il bamboccione? No, forse no, è da quell'altro, quello no, piccoletto. Paolo da Schioppa. No, Paolo da Schioppa. Il simpatico Paolo da Schioppa? Ma non c'entra niente, non ci sono bamboccioni nel film. Sì, non c'è gente che non lavora e rimane quindi, a casa, anzi. È come se lo dicesse Forza Roma. Sì, però è interessante, no? Padoa Schioppa da questa cosa, se ne parla un po', qualcuno scrive articoli, e bamboccioni, ci fanno film. E poi fanno il film con di Adam Sandler con gli americani che spureggiano. Weekend no, da bamboccioni. Riprende poi il successo di un mercoledì come si chiamava? No, mercoledì, una settimana da leone, non mi ricordo più come si chiamava. Mercoledì da leoni. Mercoledì da leoni, che c'era? No, il film comico dell'anno scorso. Weekend da leoni. No. Un weekend da leoni si chiamava? Non lo so. The Social Network. Visto oggi. Bello. Una notte da leoni, proprio che non mi dai una mano. Colonna sonora di Trent Reznor, mi interessa. Bellissima, com'è? Soprattutto all'inizio. Sì. Allora, mi ha arrapato. Vabbè, io sono gasatissimo. Ho sentito il disco, non mi è piaciuto, però magari nel contesto del film. All'inizio è molto bella. I primi 15 minuti c'è Reznor solo strumentale, fantastico. Molto, molto atmosfera. E poi un po' lui scompare. Il film è molto interessante, ma aspettavo un po' di più nel finale. Però via, si va a intervistare il regista. Si parla di Facebook, quindi del creatore di Facebook. Sì, sì. Bene, ma torniamo alle cose di cui volevate parlare. Beh, che io c'è un film che io non ho visto perché insomma devo ammettere che a Venezia mi sono messo paura, insomma non l'ho voluto recuperare, anche perché Francesco già mi aveva accennato che a lui non era piaciuto per niente, per cui ti lascio la palla. Grazie Gabriele, sì, prendo la palla e che dirti? Allora, la pecora nera di Ascanio Celestini, questo è il film che fece saltare tre coronarie a Pupi Avati quando gli dissero tu non vai a Venezia in concorso perché abbiamo preso la pecora nera di Ascanio Celestini. Se Pupi Avati va a vederlo al cinema probabilmente gli scoppiano le altre quattro coronarie che c'ha. Qual è il film? Perché proprio si spara il bambino di 48. È un weekend da bamboccione. Vedi a lui già gli piace, a Storks già gli piace questa idea del bambino che ha a 40, quanti anni ha tuo figlio? 48 mesi. E c'è Chris Rock che fa ma sono 4 anni. E il bambino va sempre a succhiare la tetta che succhiava anche Viggo Mortensen in History of Violence, cioè la tetta di Maria Bello, bella attrice americana bionda con un seno. Belle dette, perché sì, vabbè, adesso non esagero. C'è sempre questo bambino avanti, che succhia. Prego, la pecora nera. La pecora nera è stata. Ne parla tutti benissimo, filmone. No. Allora, è stata un po' la pecora nera dei quattro film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, sì. mi permetto, perché ma forse perché non vi pagano, parlate male dei film. Esatto. Gabriele, o anche poco, a volte li prende i soldi, ma se sono pochi poi non parlo bene lo stesso. Gabriele non lo paga nessuno, tranne me. Io sto cercando di fargli ottenere dei soldi, un contratto, siamo molto contenti per questo. Ancora però, siamo nel campo dei se, però. Vabbè, arriva, no. Abbi fiducia in Ziolo. Io qui acquisto macchine, televisori, Vabbè. Insomma, Ascanio Celestini è mezzo matterello, o forse no, o forse è uno che lavora in un istituto di igiene mentale in Italia e è molto amico di Giorgio Tirabassi, sta sempre insieme a lui in questo ospedale e vanno sempre in giro di qua di là e lui racconta la sua vita, parla, c'è una voce over, parla, non fa altro che parlare Celestini, parla, non ci fa vedere le immagini, sta sempre a parlare, parla, continuamente parla. Come i film turchi, quelli... No, il contrario. Sono dei grandi silenzi espressivi. L'opposto, no? È l'opposto e quindi sta sempre a parlare. E state zitto! Ma che dice? Pio, allora, soprattutto dice pio. No, io vi licenzio perché è arrivata la recensione di Lucignolo sulla Benvenuti al Sud, che è straordinaria. E non mi dire che è migliore della nostra, non ci posso dire. Assolutamente. Benvenuti al Sud è una triste traslazione, un'approssimazione, una copia, l'avvicinarsi di un probabile quantomeno futuristico fenomeno di format cinematografico acquistabile in comode rate da un improbabile endemol. Vabbè, ma chi è? Cattivissimo. Ma possiamo dire che l'esistenza del concetto di format cinematografico già è stato sfruttato anche peggio di così. C'è il bellissimo Come le foglie al vento, che è diventato La paura mangia l'anima, che è diventato Far from Heaven. No, ma infatti un film che ha avuto tre remake diversi, tutti bellissimi. Quello che il tuo amato Lucignolo 77 ignora è che il cinema esiste dal 1895 e questi giochetti e queste operazioni si fanno forse dal 1896. Quindi wake up Lucignolo, non è mai troppo tardi. Gorbaciov telegrafico. Gorbaciov, sì. Derivativo da Sorrentino, troppo sorrentiniano. C'è Servillo che va sempre in giro ed è un cavaliere senza macchia e senza paura, va in giro per Napoli che sembra un Kong ed è molto simile al protagonista delle conseguenze dell'amore. Quindi è un sorrentino senza essere sorrentino, con un orribile... No, e abbiamo anche già visto questa settimana un altro finto sorrentino, che è l'utilizzo dell'attore di L'amico di famiglia, Geremia De Geremei, in Benvenuti al Sud, che un'altra derivazione sorrentiniana. Vabbè, questo non sono affatto d'accordo, perché cioè comunque non è utilizzato come lo utilizzerebbe Sorrentino Gabriele. Però lui è proprio sorrentiniano, cioè Giacomo Rizzo. Che è quello che fa la gag col protagonista di Giù al Nord. Detto ciò, Pecora Nera, Scario Celestini parla continuamente, è la vita di un uomo che ha subito un trauma fortissimo, che parla di questi favolosi anni 60, è nato e cresciuto da bambino nei favolosi anni 60, parla, sta sempre a parlare. Gli piace molto una ragazzina che incontra donna dopo tanti anni in un centro commerciale e sta sempre a parlare e c'ha l'amico che è Giorgio Tirabassi. Non dico perché poi c'è un colpo di scena alla fine. È un film noiosissimo e ridondante. Mi è sempre piaciuto Tirabassi come attore, molto bravo, soprattutto è bravissimo nei Figli delle Stelle, ma qui non aiuta, che arriverà fra poco, fa un sottosegretario rapito fantastico, ma qui non aiuta manco Tirabassi, cioè è simpatico come è simpatico Celestini, che a me piace a teatro, ma il cinema è un altro mezzo, devi parlare di meno, devi farmi vedere di più, devi raccontare con le immagini e no. E se questo è il film che ha tolto il posto a Pupi Avati, mi dispiace per Pupi Avati. Quindi, insomma, è un film che verrà dimenticato nel giro di 2 secondi e mezzo. Ma forse a Lucignolo 77 piacerà tanto, perché non è un format all'endemol. Francesco poi non è un rosicone, per invece fondare. È rosicato. Questa è la prima cosa che ho imparato di lui, che non rosica mai. Io voglio bene. Malissimo. Va bene, parliamo di cos'altro. No, allora invece parliamo, c'è un interessante, è successo una cosa. Abbiamo molto interessante. Abbiamo 4 minuti, poi c'è il pelato che arriva. Non c'è Mario Tagliaferri, ma c'è, come si chiama questo qui? Matteo Catizzone. Ce li faremo abbastare, perché è successa una cosa molto interessante al box office. Cioè, come era prevedibile, Inception è schizzato con forza in cima. Appena uscito è subito primo con un buon incasso, non eccezionale, però buon incasso di 2,5 milioni, che è assolutamente buono, e seguito dall'Ultimo dominatore dell'aria. Ma la cosa strana è che la media per sala dice il contrario. Per media per sala vuol dire l'incasso totale diviso il numero di sale in cui è uscito. Quindi diciamo è come se fosse su un incasso ragionato, quanta gente c'era nelle sale praticamente, e diciamo che, senza stare di nuovo a ripetere le cifre, c'era più gente nelle sale dove hanno fatto l'ultimo Dominatore dell'aria che in quelle di Inception, benché poi il totale di quelli che sono andati a vedere Inception sia maggiore. Questo secondo me personalmente è dovuto semplicemente al fatto che hanno un po' sgravato alla Warner, l'hanno fatto uscire in troppe sale, 600 era veramente un numero fuori dalla grazia di Dio. Anche questo vuol dire che lo spinaceto di Caro Diario hai nulla da dire riguardo a questo film, cioè, forse devi correggerti per dimostrare che non sei un rosicone. Io lo dico, ti do questa possibilità, grande anteprima la settimana prossima di Buried. Tutti possono venire a vedere Buried, un film fantastico dove c'è quello che lo mettono sottoterra. Sottoterra? È bellissimo, devi venire. Dove ci siamo incontrati un po' di tempo fa all'UGC, Porta di Roma, Sandro. Gratis? A 5,50 euro, ma te potresti entrare, te faccio entrare gratis. Ma non pago, ma figlio. No, mi faccio entrare i soldi da Matteo. No, tu entri gratis. Faccio prestare i soldi da Matteo. Anche Catizzone verrà, e insomma. È bellissimo, eh? Il 6 film. Ottobre alle gran film, bellissimo. A che ora? Alle 20:30 ci vediamo tutti all'UGC. No, io sto qua, come faccio? Comunque, sai che devi fare? Stacca la spina del proiettore, aspetti che arrivo. Ci sono dei problemi, un attimo, adesso risolviamo. Vabbè, lo vedremo in un'altra cosa. Esce il 15 ottobre. Ascoltatori di Radio Rock, no, ripeti bene giorno e ora? 6 ottobre, 20:30, UGC Porta di Roma. Come fare a prenotarsi? Non lo so. Ho solo la domanda, ma non so. Contattate Gagnola, contattate me su Facebook. A proposito di social network, 5,50 euro. Dateci 5,50 euro direttamente a noi. Sì, è bellissimo. E Year After, bello questo film, deve essere. Non ne sapeva del nulla. No, quindi Clint Eastwood. Ma come non ne sapeva del nulla? Ma è un thriller soprannaturale. È la prima volta che Clint fa un thriller soprannaturale. Non molto interessante. Quindi è la prima volta che Clint si chiede se c'è il metafisico e se il metafisico può ed è una cosa, cioè, non sappiamo come si pone lui sul metafisico, è una cosa totalmente inedita. Mi spara, lo guarda male, secondo me gli sputa, è veramente come quando sputa al cane, lo gela con lo sguardo il metafisico. Clint, televisione, niente. È morta questa rubrica del cazzo. Fantastico, lo sapevo. Insomma, si dice Shyamalan. Ecco, si dice Shyamalan la settimana scorsa. Avete già parlato della passione dei numeri primi? La schifezza dei numeri primi? A me non mi è dispiaciuto i numeri primi. Ma io non sono ancora riuscito a andare a vederlo, sai? Ancora non sono. Questo non è un bene. Ma io scaricherò tutte le colpe sulla mia ragazza di questo. È solamente colpa. La passione, cos'è sto film? La passione ci ha deluso entrambi. Un film divertente, perché si ride anche abbastanza di gusto, che è tipico italiano, cioè l'intellettuale in crisi che va in provincia e in provincia alla fine finisce non per ritrovare se stesso. È un artista. Hai ragione, l'artista, il regista in crisi. Sembra bello, sembra più dinamico, più sincero del solito, e alla fine invece svacca, miseria. Reggere tutte e due, già uno è. Reggere tutte e due è una cosa terribile. Dai, che siamo andati bene oggi. Insomma. Ci serviva il cavallo più forte della radio, vero? Settimana prossima, grande ospite, enorme ospite che cercheremo. Non diciamo di nulla. Enorme. Le promesse elettorali che poi non manteniamo. 6 ottobre 20 vivo una 30. Settimana terrorizzato che lui fa le promesse. No, vedi, sono d'accordo soprattutto su Celestini. Sì, Celestini è brutto, è veramente brutto. Ma con il massimo rispetto, eh. Con il massimo rispetto. È un bravo attore di teatro, però. Ma io ti voglio bene, Celestini, ma il cinema è un'altra cosa. Bene. E non doveva essere in concorso a Venezia. Non va bene questo. Non va bene. Non va bene, Marco Müller. Non va bene. Questo messaggio scuote qualche. Per saltare qualche testa. Lui del celluloide prende posizione. Baci. Ancora per poco. Ah no, invece ho un messaggio di una comunicazione di servizio importante. C'è stato un problema per chi ci segue con i podcast, perché la piattaforma con cui avevamo iniziato, con cui avevamo iniziato a mettere i podcast è morta totalmente, quindi l'archivione storico è saltato, cioè la roba anche a te, che va più indietro dei sei mesi è saltata, perché hanno chiuso. Ci sono dei problemi con iTunes, quindi se seguite la trasmissione con i podcast senza iTunes andate lisci, non è un problema. Se la seguite su iTunes dovrete cambiare, cioè io adesso cancello l'account che mi hanno fatto e ne rifaccio un altro perché iTunes non consente il cambio di indirizzo, almeno non con queste situazioni, per cui non temete, se non lo vedete tornerà. Vabbè, tanto grazie poco. A tutti e a tutti, ci vediamo lunedì. Per quel che mi riguarda vi lasciamo con Marco e ricordatevi sempre che una pietra che rotola raccoglie mai sugo. A lunedì, ciao. Sempre ammesso e non concesso che vada tutto bene. Fino a qui ci siamo arrivati, ci siamo, ma venerdì prossimo ci siamo. Venerdì prossimo ci siamo. Dipende. Dipende da. No, da perché devo scrivere iTunes per riavere lo spazio per i podcast. Cioè, ma io sono appena arrivato, mi stavo tanto a divertire, sono tornato in rana. Dillo a me, caro mio. C'è lo spidone. Dillo a me, caro mio. Va bene. Grazie a tutti, a lunedì. Ciao. Tutto va bene, ciao.